Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Sono Enrico Ruggeri. Questa settimana storie di follia e di passione al Falco e il Gabbiano. Jim Jones, il reverendo che convinse 900 persone a compiere il più grande suicidio di massa della storia. E poi assieme al re dell'hard, Franco Trentalance, racconteremo la storia di Linda Lovelace e della sua gola profonda. E poi voliamo sulle ali di carta fino a una storia che io conosco molto bene, il sogno delirante del dottor Frankenstein. E ripercorriamo i 3 secondi più lunghi della storia del basket, Alexander Bielov e quel canestro a Monaco 72 con Dino Meneghin. E per finire George Michael, dagli esordi fino alla sua grande carriera chiusa tragicamente. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, Il Falco e il Gabbiano. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30, su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Questa puzzetta di cavolo che si sente per tutta la casa. E noi qui bisogna levarla questa puzzetta, qui bisogna dare una bella rinfrescata. Chiameremo la fulgida. Fulgida? Chiameremo i pompieri. Sì. Ma tu sai cosa faccio adesso? Chiamo la questura. No, no, chiamo la... Ma che è matto? Ma questo si è offeso, ma come? Ma siamo colleghi, è santo Dio. Vabbè, io mi ricordo di quando all'asilo facevamo i pranzi tutti insieme nella sala da pranzo. E io odiavo i broccoli, quindi mi ricordo del profumo terribile della pasta ai broccoli che proprio mi faceva piangere. Io non ero una bambina schizzinosa e piagnucolosa, però la pasta ai broccoli proprio non la sopportavo e quindi mi ricordo l'odore di broccoli della mensa dell'asilo. Prevengo subito ogni possibile critica. Con tutto quello che sta succedendo nel mondo, tu ci parli dei broccoli. Sì, questa mattina ho voluto dare a chi mi ascolta un attimo di respiro, se possibile. È una trasmissione volutamente leggera. E è una trasmissione che avrei voluto fare venerdì passato. Venerdì passato ci sono stati episodi gravissimi che hanno dato la necessità di approfondire la questione del lancio dei missili americani in Siria. Oggi sarebbero altri fatti ancora più gravi, ancora morti, altro sangue. Ma oggi vorrei darvi un momento di leggerezza, se possibile, per prendere respiro e poi ricominciare da domani ad approfondire l'attualità, come già stanno facendo tutti i colleghi di Radio 24. L'argomento di cui avrei voluto parlare e ripropongo stamattina era un argomento ameno, che a me interessava, divertiva, e reputo che sia ancora il caso, magari in questo stralcio di ora che vi farò compagnia, di parlarne. C'è stata una sentenza della Cassazione. le sentenze alla Cassazione sono quanto di più divertente a volte si possa immaginare, perché stiamo sempre a sfiorare il paradosso, ma il diritto non è che sfiora il paradosso, specifica laddove non c'è chiarezza. In questo caso questa sentenza, per precisione la 14.467 del 2017, è stata condannata a una coppia di Monfalcone per molestie olfattive. Un reato nuovo, non esisteva il reato di molestie olfattive. Ma in questo caso la Suprema Corte ha deciso che il reato di molestia olfattiva corrisponde più o meno, rientra nell'ambito del getto pericoloso delle cose, che è previsto appunto all'articolo 674 del codice penale. Quindi, come io rischio una condanna penale se tiro un vaso di fiori dal balcone del mio appartamento e colpisco un altro condomino, allo stesso modo sono penalizzabile se lo colpisco con le molecole puzzolenti del cavolfiore che sto bollendo nella pentola. In questo caso la coppia incriminata stava friggendo del pesce. La frittura di pesce, che può essere qualcosa che stuzzica l'appetito, se immaginate arriva al mare in una bella trattoria, in buona compagnia, con un bel vinello ghiacciato vicino, ma sentirsela magari mentre uno è seduto davanti al computer a scrivere un pezzo, a lavorare, o in cui uno è comunque preso dai fatti suoi, con questa usanza che hanno molti nei condomini, cominciare a cucinare la mattina. Io la mattina mi sveglio con l'odore del soffritto del sugo, ma roba alle 7 di mattina. C'è qualcuno che alle 7 di mattina già c'ha la cipolla sul fuoco, prepara il sugo in tempo, come facevano una volta le mamme. Per me non mi va di svegliarmi con la cipolla, mi piacerebbe svegliarmi, non so, con incensi profumati, con altro tipo di fragranza. Beh, è giusto secondo me che la Corte di Cassazione abbia deciso questo reato. È come se mi tirasse una sassata, se mi tirano poi la puzza del loro soffritto. Beh, poi anche sul cavolfiore avrei da aprire una parentesi biografica, autobiografica anzi, che però lo farò fra qualche istante. 800240024, siete stati mai colpiti da reato olfattivo? Producete a vostra spontaneamente, autonomamente, senza pensare ciò sia un fastidio per il prossimo, dei reati olfattivi. Vediamo se tra poco riusciamo a specificare meglio qual è la ragione e la consistenza di questo reato. Melog, cronache meridiane. Per la prima volta, una sentenza della Corte di Cassazione condanna la molestia olfattiva. Il reato si era consumato in un condominio in cui una famiglia sembra amasse friggere in maniera troppo pesante. Ci sembra coerente. L'odore di fritto resta attaccato agli abiti e ai capelli e chi viene investito dall'alone della friggitoria domestica poi diventa un portatore sano di puzza e sicuramente potrebbe averne compromessi i rapporti sociali. Non si può escludere che la sentenza possa essere estesa alla bollitura del cavolfiore, al soffritto con aglio e cipolla, all'eccesso di curry. Anche l'odorino di arrosto domenicale, fuori contesto e non richiesto, potrebbe alterare l'umore di chi magari è a dieta o è vegetariano. Peggio ancora per chi è vegano, che per ogni effluvio di salsiccia in padella potrebbe avere l'angosciosa conferma di un delitto consumato. È un paradosso, ma nell'epoca della caduta di ogni muro di privatezza sui social network ci stiamo compattando per difendere la privacy delle nostre narici. 800240024, l'olfatto è uno dei sensi di quali si parla meno probabilmente, perché evidentemente siamo abituati a guardare, siamo abituati ad ascoltare, siamo abituati a digitare su degli schermi, ma il fatto olfattivo non è nemmeno trasmissibile attraverso un social network e quindi prepotente si riaffaccia nella finestra del nostro immaginario in primo piano con la sentenza della Corte di Cassazione che definisce il reato di molestia olfattiva. Avete sentito nella scheda, abbiamo elencato alcune ricadute di questa sentenza, perché in effetti è vero, siamo ormai talmente tanto condizionati dal consumo di cibo, il cibo è diventato una filosofia, è diventata una religione. A un vegetariano vegano può dare fastidio sentire voi che friggete la salsiccia. Pensa già al maialino che lì soffre su quella graticola come una sorta di martire. Alla stessa maniera, quello che è un odore che ci richiama ricordi teneri di fanciullezza, le nostre madeleine molte volte può essere anche veramente l'arrostino con il purè vicino che faceva la nonna il giorno di domenica, e tante volte l'abbiamo mangiato, ma risentirselo, riproporlo oggi quando siamo siamo già grandi, vecchi, strafatti di ogni possibile medicamento per arginare quelle che sono i nostri liquami interiori ed esteriori, sentire l'odore dell'arrostino fuori orario, fuori contesto, può essere veramente fastidioso. Come la pensate? Avete subito molestie olfattive oppure siete soliti a infliggere molestie olfattive ad altre persone? Tiziana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottor Nicoletti, salve. Io sono molto felice finalmente che questo senso, come diceva lei, sembrava figlio di un dio minore. Sì, nessuno pensava più, il naso non serviva più a niente. Invece. Esatto, esatto. Invece no, è quello che ci dà il senso del nostro essere umani. Sì, ma lei è una molestatrice olfattiva, lo immagino. No, io sono una vittima. È una vittima? Di chi è vittima? Sono vittima dei profumi, di ciò che noi chiamiamo profumo, invece la molestia peggiore olfattiva. Io lavoro nell'ambito anche della ristorazione e con i miei clienti molte volte abbiamo pensato di fare un adesivo con, invece che il divieto di entrata di animali e cani, piuttosto a persone che tengono il profumo, ma non per sé ad una distanza intima, gente che normalmente oggi vai in ristorante a pagare e per mangiare quello che dovresti riuscire ad assaporare, e invece il tuo naso non riesce a farlo perché il tuo vicino o la tua vicina hanno un profumo che ti fa girare la testa. Quindi eccesso di profumo, le parla di eccesso di profumo, diciamo. Assolutamente. Chi si profuma troppo, ma uomini o donne si profumano troppo? Dottor Nicoletti, questa domanda lei lo sa qual è la risposta, non perché lo so, la classica sarebbe stata. No, gli uomini sono donne. Sarebbe stata appannaggio sempre era di la donna, oggi sappiamo benissimo che tutto è capovolto, quindi in realtà sono più gli uomini che si fanno il bagno nel piombo. Ma perché, ma mi faccia capire, è sgradevole perché ne hanno troppo o un uomo che ha, diciamo. Troppo. Invadenti, noi stiamo seduti al ristorante, nessuno pensa di avere l'educazione, di dover entrare in un posto dove ci sono altre persone. Non ho mai pensato che il profumo potesse essere molesto, lo sai che non ci ho mai pensato. Assolutamente, lo è. E arreca anche un danno perché. Pensavo fosse più molesta la puzza, l'ascella sudata, e non invece il profumo. Le molecole di queste cose sintetiche o anche le essenze naturali che entrano nel naso impediscono alla lingua di sentire tutto. Ma quello che questa è una sua sensibilità particolare, però, perché. No, normalmente. È una cosa scientifica. Vabbè, lei come in questa stagione nei mercati, attenzione, ci sono fave fresche, chi ha problema con le fave stia lontano. Lei deve mettere in questo esercizio abbiamo una particolare difficoltà a percepire a sopportare i vostri profumi. Non vi profumate, entrate senza profumarvi, chiaro. Carlo, abbiamo messo a punto un'altra categoria della molestia olfattiva che non ci pensavamo alle puzze, ma anche il profumo può essere molesto. Carlo. Sì, buongiorno. No, io ho chiamato solo per ricordare, ci fu un caso a Roma, sì, all'inizio di Viale Mazzini, di quel ristorante di pesce che si era installato al posto della concessionaria di auto. Sono passato davanti adesso. Esatto, appunto. E lì loro l'altra sera sono passato avanti. Avevo sbagliato un appuntamento, ho sbagliato il ristorante. Una puzza terribile in tutto il quartiere, vero? No, io ci mangio qualche volta, sinceramente. Io sono dall'altra parte, sono un mangiatore di pesce. Sì. Di pesce fritto. Ma pesce buono, sì, però l'odore c'è, indubbiamente c'è. Sì. Solo pesce si mangia, è una friggitoria grandissima. E qual è il problema? Hanno protestato le persone lì? No, non so come sia finita la briga giudiziaria in quel caso. Ma il pesce c'è, io ci sono passato davanti sabato sera, era pieno di gente che mangiava felicemente pesce, l'odore c'era. Esatto. È un ristorante di pesce enorme dove si fa solo pesce fritto e sì, l'odore di pesce c'è. Allora, l'odore di pesce può essere buono nella fattispecie che ho descritto io. In un momento uno gli va di mangiare del bel pesce, si va a mangiare il pesce in un posto dove si mangia pesce. Poi bisogna pensare a chi passa all'intorno, magari afflitto da altre cose, la molecola ricolpisce, rimane, permane, ti segue, è una cosa che si sa che non è che rimane lì, è una sorta di alone che impregna gli abiti. Quindi giustamente i giudici di Cassazione hanno detto è come tirare una mattonata, tirare una molecola odorosa. Fabrizio, buongiorno. Salve, buongiorno. Io telefono per un periodo in cui ancora non c'era questa sentenza. Recentissima, roba di una settimana. E anni fa abitavamo ancora a Roma, eravamo in un condominio in una zona popolare e nell'ultimo piano del palazzino avevano comprato casa dei immigrati, che non c'è assolutamente nulla contro gli immigrati, semplicemente per dare informazioni in più, che chiaramente avevano delle abitudini culinarie diverse rispetto alle nostre. Il loro problema è che avevano lo sbocco della cucina esattamente sul lavatoio condominiale, dove noi andavamo a stendere i panni perché era un palazzo senza balconi, e quindi chiaramente tutti gli odori di spezie, cipolle, si sentono ad impregnare continuamente i nostri vestiti. Questa cosa è andata avanti per qualche mese, quando alla fine insomma abbiamo, diciamo, come condominio ci siamo un attimino... No, conosco il problema, perché anche dove abitavo io c'era una famiglia proprio al piano terra, quindi imboccava tutto il camino della tromba delle scale. È una famiglia, penso, centroamericana, che aveva però un'abitudine loro rispettabilissima: la mattina verso le 6 di mattina cucinavano tutti i giorni fagioli e riso. Fagioli e riso no, come li cucinavano loro? Li cucinavano praticamente sbruciacchiandoli, quindi l'odore di fagiolo sbruciacchiato, di legume sbruciacchiato, è quello che noi consideriamo l'attaccaticcio alla padella, che è una cosa terribile, e arrivava tutte le mattine, e per me era la mia sveglia, non mettevo manco la sveglia, non c'aveva senso, ma arrivava l'odore di fagiolo sbruciacchiato, ero ora ad alzarmi. È durata un po', però siamo stati molto civili, abbiamo rispettato il diritto della cucina etnica. Poi finalmente hanno trovato una collocazione migliore e ci accontentiamo della classica puzza di pipì di gatto, di cavolfiore bollito, di arrosto fatto la mattina, di bistecca sbruciacchiata, però fanno parte della nostra cultura, quindi probabilmente qualcuno li sopporta meglio. Domenico, buongiorno. Ah no, fermo, devo fermare. Domenico, resti un attimo, dobbiamo fermare un attimo, devo lasciare la linea, intanto respira, apre una finestra molto interessante e anche molto scabrosa sulla molestia olfattiva. L'apriremo tra un istante, però, tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane. Quando friggi 100 supplì, 20 kg di patatine, 50 calzoni, alla fine senza la canna fumaria, fai una puzza tremenda in tutto il rione, e quindi tutti i cittadini che abitano là si devono sentire la puzza tremenda che arriva da quel negozio che fa quella determinata azione. Dobbiamo continuare la battaglia ed imporre la canna fumaria a tutti i locali di somministrazione di alimenti, in maniera tale che non c'è più puzza di kebab all'ora di pranzo, puzza di patatine fritte, puzza di hamburger, perché io voglio mangiare vegetariano, per esempio. Okay? Ecco, questo è un caso di quelli che avevo già accennato io. Il vegetariano vuol sentire l'odore di carne arrostita, che ripeto, non lo ripeterò mai abbastanza. L'odore di cucina è buono e appetitoso per persone che sono in procinto di mangiare, i luoghi acconci al consumo di cibo, in situazioni in cui il cibo è desiderato, è accarezzato, immaginato e via dicendo. Fuori di quel contesto l'odore di cibo è molesto come qualsiasi altro odore. Mi scrivono persone che abitano accanto a discariche di rifiuti speciali, è chiaro, è un'altra situazione. Però la sentenza alla Cassazione, devo specificarlo, parla di usi condominiali, usi domestici, ristorante non ha la canna fumaria, non ha dispositivi di aspirazione adeguati a norma di legge, è chiaro, già incorre comunque in delle sanzioni. Ma nessuno ha mai pensato che a casa non si può soffriggere o fare il broccolo, perché questo può essere un reato. Domenico, mi ha interrotto con lei. Sì, buongiorno, lei è tardi ascoltatore. Lei cerca di allargare, diciamo, i margini di questa sentenza, mi sembra di aver capito. Ma apprendo con sorpresa che esiste anche questo reato olfattivo. Nel mio caso, molestia olfattiva, sì, molestia olfattiva. Sì, nel mio caso è una molestia data dalla presenza di una collega con cui convivo da alcuni anni a questa parte, che manifestamente non si lava, non si cambia o si lava poco, insomma, per cui emana un odore... cioè puzza, è una collega puzzona, esatto. Ma questa è una cosa che avverte soltanto lei, che molte volte è soggettivo, o diciamo in tutto il vostro ambito lavorativo c'è questo problema? No, è una persona nota, tant'è che... Ma ne avete parlato con le rappresentanze sindacali? Poi magari, non so... Ho parlato con il mio rappresentante sindacale che ha fatto pressioni perché fossi trasferito io. Io lavoro in un grande ospedale, esiste un centro per le criticità relazionali, cosiddetto, dove ci sono dei psicologi che si occupano proprio di capire queste situazioni. Ha proprio un problema neurologico per cui non si lava volutamente, non è una signora che magari ha un po' di ascella pesante, no? È proprio... No. Lei ha dei cani in casa, vive in campagna, ritengo che la pulizia complessiva non sia elevata. È lo stadio prima di fare la punca bestia, la panca bestia, diciamo. Viene a lavorare con, ha presente quelle scarpe che si usano per andare in spiaggia, tipo le Clocks? Sì. Ecco, usa quelle senza calze, per cui le tiene estate, inverno, e puoi immaginare, si lava, non si cambia quasi mai. Ed è un fatto notorio, perché altri colleghi che negli anni hanno avuto modo di averla in stanza Però poverina, ha uno stato depressivo evidentemente, qualcosa che non dovrebbe farsi vedere, curarsi, perché è un problema suo. Assolutamente non è depressa, perché è una persona molto reattiva. Quando ho avuto modo di far presente questa cosa mi ha aggredito. È proprio una puzzona che vuole rompere le scatole agli altri. Mi ha detto, non mi rivolge più la parola, io quando entro in ufficio, quando lei c'è, non ci parliamo, lei non mi però parla. Però non credo che rientri, diciamo, nella sentenza della Cassazione. Mi rendo conto che è un problema grosso. È anche brutto dire che l'unica soluzione è creare un ufficio ad hoc in cui è in sicurezza rispetto agli altri colleghi, ma come si fa a stare in un contesto civile se si puzza, se non si scambia? È un grosso problema, è veramente un grosso problema, e onestamente non ho risposta a darle se non esserle vicino con tutto il cuore, veramente. Sandro, buongiorno. Sandro non c'è più. Angelo. Pronto? Angelo. Pronto, buongiorno. Sì. Io volevo far presente un fatto avvenuto qualche anno fa ad un mio vicino africano che a un certo punto sul barbecue esterno aveva cominciato a arrostire, diciamo così, dei tranci di pesce e dei polli, ma in quantità esagerata. Ma nel terrazzino condominiale? No, nel giardinetto fuori, nel cortile fuori. Io abito in una casa suddivisa, tipo una villetta schiera, diciamo. Nella parte vicino lui aveva fatto questa cosa e sul prato aveva un'enormità di pezzi di pesce. Vabbè, si faceva una bella grigliata. Questo. Sì, però aveva affumicato tutto, bisognava tenere chiuse le finestre. Vabbè, quello non si può fare. Esatto, e poi l'abbiamo risolto amichevolmente, nel senso che l'ho chiamato. Oltre diciamo l'odore, c'è il fatto, la pericolosità di fare un barbecue. Il fumo, sì. Infatti lui ha spiegato che loro andavano a Verona all'ingrosso e prendevano tanti polli e tanti tranci di pesce. E lo cucinavano tutto insieme, poi facevano, lo surgelavano. Lo cucinavano tutto insieme e poi lo mettevano in freezer. Lo surgelavano, facevano, lo so, però non è che si può fare nel giardinetto condominiale, chiaro. Avevamo parlato prima, Sandro, eccomi. Eccomi qua, Sandro. Buongiorno, adesso racconterò questo episodio personale, invece quindi non è esterno di terzi, ma proprio nella mia casa dove abitavo con mia moglie. Avevamo il domestico, casa su due piani, il domestico cingalese abitava di sotto, dal Zakir, e lui produceva una puzza tremenda, anche mia moglie. Beh, sì, cucinano speziato. Sì, molto impositiva, la moglie di Vicenza va giù due o tre volte con il Zakir, basta, tu non puoi cucinare, fai così, smettila. Allora intanto gli ha murato la porta che dava verso casa nostra, per cui lui doveva fare tutto un giro esterno, gli ha murato la porta, non poteva più attraversare. Poi continuava a venire sull'odore, andava a annusare, scopre che la puzza si insinuava attraverso i tubi dell'elettricità, e allora gli mura pure le prese elettriche. Poi siccome ancora non riusciva a contenere questa puzza tremenda che veniva chiamata dagli amici odore Zakir, allora cosa fa? Sì, cucina con delle spezie, la curcuma, varie spezie fanno. Allora faceva delle incursioni tremende di sorpresa, tipo rappresaglia nazista, nella cucina di questi signori. Ormai era diventata un'ossessione per lei, chiaramente. Sì, andava, sequestrava apriva tutti gli sportelli della cucina, sequestrava le cose che secondo lei avrebbero potuto produrre pizza, puzza, le armi di distruzione di massa, insomma, era guerra chimica. Poi tutti ha preso un ventolone di quelli industriali che hanno le cose, gli ha piazzato mano militare in casa loro con una cappa, con un tubo aspirante che comandava lei da sopra, e quando pensava ci fosse troppo puzza, pam, gli sparava sto coso rumorosissimo che gli aspirava. A un certo punto questi ovviamente se ne sono andati, perché beh, non ne potranno più, sono andati a fare puzza, però una puzza tremenda, sono andati a fare puzza. No, lo so, lo so, perché in un periodo era molto appassionato io di cucina cingalese, perché avevamo una bambinaia anche noi cingalese, ci piaceva molto, ci cucinava in casa, chiamavamo gli amici, eravamo entusiasti. Poi dopo un po', io se oggi sento quell'odore non ne posso più, perché all'inizio ti entusiasma, poi non ne puoi più perché è molto forte. Ma come non, io ho un problema personale con il cavolfiore. Io avevo una madre che ogni volta che io dicevo veniva una amica mia a studiare a casa, cucinava il cavolfiore, era una sorta di effetto puzzola per tenere lontane le donne da casa, così. Ma questo è andato avanti negli anni. Mamma, viene una a studiare a me, non fare il cavolo, no, tranquillo, arrivo a casa, puzza tremenda. Io ho fatto dei patti di sangue, tutte le persone con cui ho condiviso parte della vita devono impegnarsi a non far entrare mai cavolfiore a casa mia, e tuttora a casa mia se fanno il cavolfiore approfittano quando io sto fuori qualche giorno. Ma io torno e me ne accorgo, per me il cavolfiore è sintomo di micragna, di miseria, di guerra, di refettorio dei preti, quindi è qualcosa che mette tristezza proprio, è sintomo anche del tentativo castratorio di una madre nei confronti di un figlio. Vede come poi si entra nel profondo, l'odore non è una cosa da nulla. Vito, buongiorno. Buongiorno. Senta, un consiglio da lei. Posso denunciare mia moglie, visto che adesso sì, adesso sì, adesso può farlo. È un reato penale. Perché io abito su due piani, la mia camera da letto al piano di sopra, io sono pensionato. Mia moglie è molto dolce perché mi prepara praticamente sempre il pranzetto. Però mi arriva tutto questo odore, io preferirei di caffè alle 7 di mattina. L'altro giorno ho toccato il fondo, riuscito a bruciare un broccolo. Quindi doppia puzza, già la puzza del broccolo che è letale. Terribile. Lo sai, ma so che guarda, sfonda porte aperte, so tutto sui danni psichici che può creare il broccolo. Broccolo bruciato. Terribile. Perché è perché l'ha lasciato in una pentola, è finita l'acqua, si è bruciato. Bravo. Quindi diciamo il primo strato di puzza, la prima sventagliata è quella classica del broccolo bollito, che è orrenda, che l'ha svegliato. Finita quella arriva la botta finale, che è il nucleo incandescente del broccolo bruciato. E dulcis in fundo per pranzo, pesce fritto. Io capelli lunghi me lo sento nel naso dappertutto, una cosa che sì, odio. Il pesce poi rimane addosso e se lo porta avanti per una settimana. Pretende tutta casa, i divani, tutto sarà. Infatti una volta le donne quando friggevano smettano un fazzoletto sulla testa, mi ricordo a casa mia. È vero, bravo, bravo. Bisogna friggere tutti i fazzoletti in testa, che sennò si puzzava. Lo so, è dura la vita. Fermiamoci un istante, va. Un attimo, riflettiamo sul dolore dei nostri amici e riprendiamo fra un secondo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it, col TH. Vi presenta Melog, cronache meridiane. E questo qui, questo che è questo qua? Bagno schiuma sotto la scella, non ci fate crescere lo presepe vivente. Io sono andato alle poste, vomitavo. Se poi avete la litosi, avete con lo scif, con questo qua. Lo scif lo buttate dappertutto, vedrai che vi disinfetta. Non si può andare sui posti e morire. Io ve lo giuro. Con la puzza del sustra che c'era oggi su quell'ufficio postale, se ci fosse stato lo virus dell'Ebola si sarebbe annientato da solo, perché non si può. La vedeve, cazzo, la vedeve, la vedeve, non guarda niente l'acqua, la vedeve. Se uno fuma, dopo aver fumato deve mangiare un cicingomma, una caramella, perché se no la litosi gli rimane sulla bocca, ammazzi di morti così, se sconvince un genere umano, capito? Mi raccomando, condividete questo video onde la gente se ci possa... rendiamo conto che è doloroso, può sembrare impietoso esporre un caso umano così all'attenzione del pubblico. Questo è un video segnalato sul canale YouTube da Angelo Fadda. È un signore vittima di molestia olfattiva. A questo punto ci si riduce. Questo signore, immagino marchigiano, mi sembra di intuire dall'accento, è rimasto neurologicamente scosso, profondamente scosso, da una serie di molestie olfattive, dall'odore ascellare in una fila, dall'alitosi da fumo, da tutta una serie di odori che l'hanno reso folle. Questo è l'esito se non interveniamo e se non chiediamo l'applicazione della norma che la Cassazione ha stabilito, che sancisce fortemente la molestia olfattiva. Maurizio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, ecco, io volevo proprio parlare della alitosi, non se ne può più, persone che ti parlano a 20 centimetri dal volto e hanno questa tanfa incredibile che neanche nei cessi delle stazioni. Però guardi Maurizio, è un altro ordine di problemi, già ci sono tutta una serie di telefonate che volevano sapere se si poteva associare il reato alla molestia olfattiva, altri innominabili esempi, non so, la loffa da ascensore, queste cose qua, anche la fiatella che dice lei, l'odore delle ascelle, è un'altra cosa, quelle sono diciamo intemperanze organiche e secondo me vanno regolamentate con un altro tipo di atteggiamento, cioè il legislatore dovrà anche su questo lavorare. Sa, molte volte all'alitosi uno può farci quello che vuole, mangia le mentine, non c'è niente da fare, se il gatto morto in bocca uno se lo porta per tutta la vita, bisogna anche capire che sono problemi difficili. Bruno, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, senta, secondo me la molestia olfattiva peggiore sulla faccia della terra è data dalla trippa. Ah, è vero, io non sono mai riuscito a mangiare trippa in vita mia, è terribile. Secondo me è anche una molestia visiva, ma c'è sempre qualcuno che giura e spergiura di cucinarla in un modo che tu no, non puoi riuscire. No, è un cadavere putrefatto la trippa cucinata, l'odore della putrefazione proprio. È qualcosa di orripilante. Terribile, anche terribile. Il fegato a me dà un po' fastidio onestamente. Beh, io credo che la trippa sia insuperabile. Però il fegato è buono l'odore quando si cuoce, ma è cattivo quando è cotto. Non so, però sono fisime personali che abbiamo io e lei, la gente va pazza per la trippa. Ah sì, questo è sicuro. Mi permetto di consigliare una trasmissione su quello che può essere una molestia dovuta proprio a ciò che si può udire, perché lì si aprirebbe un altro. Ah beh, le molestie acustiche. Beh, poi andremo, oggi parliamo di quelle olfattive, però sembra ci sia già abbastanza materia. Comunque anche la trippa è sempre soggettivo, lei capisce, chiama la trippa, c'ha l'acquolina alla bocca quando sente quell'odorino di cadavere rimescolato, e però chi per questo odore è soggettivo, la persona per cui è sgradevole dovrebbe ricorrere appunto al reato di molestia olfattiva aggravata in questo senso. Roberto. È fantastica la trippa, caro Nicoletti. Lo so, vede, è soggettivo. A me vengono i brividi. Lo so, ma io capisco. Tante gente è impazzita. Io volevo segnalare. C'è anche la ciccia baffa, c'è chi impazzisce, c'è chi gli fa schifo. Sono tanti generi della natura. Al piano di sotto di dove abito c'è una famiglia campana gentilissima e quando ho le finestre aperte ogni tanto viene su l'odore di un ragù, anzi raù, di quelli che devono pippiare 4-5 ore. E io allora una volta gliel'ho detto, dico: signora, guarda, sto ragù è fantastico, mi fa sognare. E lei si è messa a ridere, cena, dopo qualche giorno è arrivata con una scodella piena di questo ragù e alla faccia delle molestie olfattive è una cosa fantastica. Però vede, non è una molestia, a lei il ragù piaceva, una goduria pazzesca, lei era stimolato dal ragù, probabilmente stimolato anche dalla vicina e ha preso l'occasione, era una sorta di messaggio olfattivo che le mandava la vicina. Sì, invece c'è una famiglia di cinesi, quando l'ha sedotto con il suo ragù. E i cinesi invece? No, i cinesi quando sono arrivati anni fa friggevano dalla mattina alla sera una puzza infernale, mi è stato detto 2-3 volte, insomma oggi questi signori sono i più disciplinati, più corretti, più civili di tutto il palazzo. Hanno comprato un aspiratore, splendide. Cosa fanno? Friggono con Ma non lo so, probabilmente hanno cambiato tipo di cucina, ma sono persone deliziose, i figli vanno a scuola, perfetti, parlano italiano. Insomma, delle volte bisogna anche cambiare abitudini perché non si adattano all'ambiente. Ma guardi, Roberto, anche noi ci siamo abbastanza mutate le nostre abitudini e stiamo parlando di cose che forse 30-40 anni fa non davano nessun fastidio, era anche normale perché tutti facevano le stesse cose, tutti a una certa ora mettevano il sugo sul fuoco, quindi nei condomini le mogli, che allora parlo di tempi arcaici, le donne in casa cucinavano, facevano il ragù la mattina e si scambiavano i vari ragù, gli uomini tornavano a casa, c'erano la cucina già pronta, apparecchiata, sedevano, mangiavano, mettevano il pigiama, facevano il riposino per uscire incrociano di nuovo. Oggi abbiamo un tale incrocio di transumanze esterne in un condominio, che magari sono pieno di uffici, non ci sono più le persone, fanno vite diverse, che improvvisamente questo diventa una molestia. Quello che una volta era lo scandire regolare della giornata delle persone, che era uguale per tutti, oggi è considerato molestia. I tempi cambiano e bisogna naturalmente prendere provvedimenti. Emanuela, buongiorno. Buongiorno. La sua personale molestia olfattiva, in cosa consiste? La mia molestia olfattiva, ecco, purtroppo sono le profumazioni dei detersivi, sia quelli per la biancheria che quelli per la casa. E come fa a sentire quelle degli altri però? Come quelli degli altri? No, sento quelli miei e in particolare... Semplicemente non li compra e non hanno... Esistesse un detersivo senza profumazione? Sì, ci sono, come no, oggi va nei posti dove vendono cose biologiche, ci sono dei grossi contenitori, lei va con la sua bottiglietta, spende un detersivo biologico che non ha nessun odore o è fatto con cose naturali, sapone di marsica. Ancora non l'ho trovato, in ogni caso quando ci sono dei ristoranti dove entri, quelli che hanno dei turni molto veloci e passano i tavoli con questi spray che disinfettano e fanno tutto, passano i tavolini, entri in questi ristoranti e sei sopraffatto da un odore di chimico di questa cosa che veramente ti passa anche la voglia di mangiare. Però vedi, mai capitato. Sì, vedi com'è soggettivo. Sì, molto più semplicemente passano un detersivo, uno sgrassante sui tavolini, già quello lascia un suo odore. È sempre soggettivo, qualcuno piace, qualcuno non piace, ma comunque sia, visto che siamo tanti e le diversità vanno tutelate, la molestia olfattiva ha una sua declinazione poi molto più raffinata rispetto al semplice puzzo. Pierluigi, chiudiamo con Pierluigi, velocemente. Pronto? Le fa impazzire l'odore di saponette e candele, i negozi di candele. Sì, volevo segnalare i negozi che vendono saponette e candele. E pensi, invece io quando passo davanti mi rifaccio i narici, che a me piace. È soggettivo, la molestia olfattiva è personalizzabile, abbiamo capito questo stamattina. Un grande passo avanti nella civiltà. Alla prossima.